La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Tanti anni fa, in terra di Germania, viveva un uomo a nome Michele Colas. Era allevatore di cavalli e come lui lo erano stati il padre e il nonno. Intere generazioni di allevatori di cavalli. Ma a differenza del padre e del nonno, Colas era riuscito ad allargare tutta la sua proprietà, fino oltre il fiume. E adesso dietro c'era una casa per ogni servo. E la sua di casa era più alta di un piano, con 5 stanze in più. Colas. Quella che avete appena sentito è la voce di Marco Baliani, narratore e interprete del Michele Colas di Heinrich von Kleist. La guardiana del faro. Il momento più bello della giornata per Colas era al tramonto del sole, quando tutte le cose cominciavano a perdersi nel buio. Usciva sulla veranda di casa e aveva di fronte tutti i recinti dei suoi cavalli. E a quell'ora, dai corpi dei cavalli, veniva su, esalando come un vapore, una nuvola bianca, che formava come un cerchio. E la nuvola stava immobile, ferma, a mezz'aria, come se il cielo non se la potesse risucchiare verso l'alto. In quei momenti Colas sentiva che tutto il mondo, tutto, era dentro quel cerchio, che non c'era più nulla da aggiungere e nulla da togliere, che era giusto, giusto. In quei momenti Colas sentiva che anche il suo cuore era un recinto, sì, un cerchio, e che lui, Colas, era al centro del suo cuore, e il suo cuore era al centro del cerchio dei suoi cavalli, nel giusto. In quei momenti Colas sentiva... Colas era molto religioso, ma non avrebbe mai detto a un prete quel che pensava in quel momento, che perfino Dio, ora... era lì, dentro il cerchio. No, di più, che Dio era i suoi cavalli. Prima di Marco Paolini, prima di Ascanio Celestini e questi ispirati e ammirevoli artisti della fabulazione teatrale, il precursore in quest'arte è stato l'ispirato e ammirevole Marco Baliani. Vi offriamo dei brani di Michele Colas, che insieme alla Marchesa Fonò il racconto più famoso di von Kleist. Heinrich von Kleist, grande anticipatore e rielaboratore di classici, è però nella vita il romantico per eccellenza. La sua vita e la sua morte sono un manifesto dello Sturm und Drang. Lui nacque a Francoforte nel 1777, a 15 anni era già soldato e partecipò alla battaglia sul Reno, poi si mise a studiare filosofia, poi fu tentato di fare il contadino, e anche questo è un ideale romantico, e ebbe un rapporto tormentato con la sorella Ulrike, che finirà con una rottura, e si ammala dal desiderio di uccidere Napoleone Bonaparte e di non averlo fatto, come il Pierre di Guerra e Pace, ma non così bonario e inconcludente. Von Kleist era un uomo tormentato dalla certezza della sua grandezza letteraria e dall'indifferenza dei contemporanei. E poi la morte romantica, il suicidio a 34 anni insieme alla sua amante Henriette Vogel, la quale decide di morire con lui, e a Heinrich è affidata l'esecuzione, un colpo di pistola alla sua donna, uno a se stesso. Ecco la lettera che lascia alla sorella con la straziante nobile vanteria di quella libera morte. Lascia che io mi ritiri. Tu hai fatto per me, non dico quanto stava nelle forze di una sorella, ma nelle forze di una creatura umana, al fine di salvarmi. La verità è che per me non c'era aiuto possibile sulla terra. E ora Dio, possa il cielo donarti una morte solo a metà, così gioiosa e indicibilmente serena come la mia. Questo è l'augurio più cordiale e più profondo che io possa concepire per te. Michele Colas è un uomo in rivolta contro l'autorità dello Stato in nome di una giustizia negata. Uno che alza la testa davanti al sopruso, che afferma l'uguaglianza dei cittadini davanti alla giustizia, che anche adesso rimane un'utopia. Questo è un articolo di Laura Bocci che ci parla di Michele Colas. Cosa può avere ancora da dirci oggi la storia di un mercante tedesco di cavalli della metà del XVI secolo? Cosa può fare un racconto assolutamente moderno, al punto che Kafka stesso lo idolatrava, fino a ricreare nel processo lo stesso clima di oscura angoscia, in cui il protagonista viene condannato per una colpa che non ha commesso? Michele Colas è un uomo che non riesce a contenere la rabbia, che la fa esplodere nella sua forma più violenta. Il cavallo di Colas si era impennato perché c'era un albero messo di traverso che sbarrava completamente la strada. Il commercio libero in terra. Ma perché avevano sbarrato la strada? Era l'unica strada per Dresda. Il commercio è libero in terra di Germania. A destra le paludi, a sinistra il fossato. Quello è il palazzo. Il palazzo, come si chiamava? Quella famiglia di nobili che si era insediata da poi, i von Tronka. Sì, ma perché avevano sbarrato la strada? Ci volevano più di 10-12 uomini per spostare un tronco di quelle dimensioni. E intanto la pioggia continuava a cadere, adesso i cavalli cominciavano a innervosirsi tutto intorno, che... Ma poi, proprio vicino allo sbarramento, venne in avanti sotto la pioggia un uomo che chiedeva: il lascia passare, il lascia passare! Come lascia passare? Ma io non sapevo di lascia passare. Io sono Michele Colas, mi conoscono in tutta la regione. Davvero, non sapevo di lascia passare. Il lascia passare, avanti, forza, il lascia passare! Un giorno, mentre sta andando alla fiera di Lipsia, al passaggio della dogana nel territorio di un signorotto, non è in grado di mostrare il lascia passare, che è un abuso, non ne è mai sentito parlare perché non esiste, e si rifiuta di pagare un dazio che giudica arbitrario. E allora scatta la violenza del potere. Prima gli prendono i suoi cavalli e poi lo accusano di averli rubati. Nel racconto l'assenza quasi totale della punteggiatura tedesca canonica conferisce l'andatura di un galoppo teso verso l'abisso, perché Michele Colas si ribella, armerà degli uomini, metterà a ferro e fuoco la sua terra. E la sera di quello stesso giorno radunò i suoi servi e li armò. Li armò con spade, frecce, lance e torce. Poi salirono a cavallo, diretti al palazzo del barone von Tronka. E mentre i cavalli andavano al galoppo, Colas sentiva che ora, al posto del recinto del suo cuore, si era aperta una voragine, ampia, scura, nera e profonda, e che era giusto così. E sul fondo galoppavano centinaia di borelli con un rumor di zoccoli assordante. E che era giusto così, che tutto il mondo conoscesse l'ampiezza di quella voragine. Quando furono davanti al palazzo del barone, le porte e le finestre erano chiuse, sbarrate. Barone von Tronka, io, Michele Colas, ordino che tu ora porti qui davanti a me i miei due morelli. Li rivoglio belli, forti, sani, come erano un tempo. Barone von Tronka, fuori! Finché poi, quando catturato, c'è una cosa che potrebbe salvarlo, ed è la profezia di una zingara che lui ha avuto per caso, e questa profezia rivela il giorno esatto in cui il principe elettore perderà il suo regno e anche il nome dell'uomo che glielo porterà via, e quindi si potrebbe prevenire questo fatto. E allora gli dicono che se lui cede questo documento gli salveranno la vita, e invece no, proprio mentre si trova sul patibolo e potrebbe ancora scampare al taglio della testa, lui compie l'ultimo atto nella sua corsa suicida e omicida verso la distruzione totale, e ingoia la profezia, la distrugge, mentre il principe elettore, che è al corrente del fatto che avrebbe potuto salvargli il regno e non lo ha fatto, ha un attacco di cuore davanti alla forca, vedendola sparire per sempre nella gola di Colas. Quindi lui, che verrà giustiziato, però ha vinto infine, e ha vinto violentemente e fortemente contro i suoi persecutori. Inghiottì il pezzo di carta. Poi gli misero la corda al collo. E mentre la corda si tendeva verso l'alto e il suo respiro andava mescolandosi a quello del vento, a Colas sembrò di vedere che ora, sulla pubblica piazza della città, la folla era divenuta una nuvola, un cerchio bianco. E al centro del cerchio ora entravano i suoi due meravigliosi morelli, belli, forti, sani. poi la nuvola si chiudeva e stava immobile, come se il cielo non se la volesse risucchiare verso l'alto. Poi la corda si tese del tutto e restò soltanto il suo nome nel vento. Ancora oggi, in terra di Germania, il nome di Colas è ricordato e un'intera città prende il suo nome, mentre del nome della dinastia di quel principe di Sassonia si è persa nel tempo l'eco e la memoria. Abbiamo ascoltato Michele Colas, tratto da Von Kleist, interpretato da Marco Baliani. Il suo lavoro e quello di Maria Maglietta sarà l'argomento di oggi. Abbiamo parlato tante volte della Gita al Faro, questo piccolo festival della letteratura organizzato dalle Turbine, questa associazione di ragazze che si occupa di cultura, che aveva come archimandrita Lidia Ravera. Eravamo otto scrittori, ci siamo incontrati nell'isola di Ventotene, e poi il compito finale, il saggio finale, era un racconto ispirato all'isola. Io avevo messo in scena, avevo fatto parlare due famosi confinati in quest'isola in tempi diversi: Giulia, nipote di Augusto, che era stata mandata lì per i suoi costumi leggeri, ed Ernesto Rossi, che invece era stato mandato lì dal regime fascista per i suoi costumi seri. E in questo racconto ci sono loro due invisibili che esaminano gli scrittori, lei con un occhio da ninfomane. E così, a un certo punto, guardandoli tutti, il suo occhio cade su Marco Baliani e Maria Maglietta, artisti di teatro, scrittori, anche marito e moglie. Togliere a queste due parole quella sensazione di tristezza che danno di solito. E lei guarda i Baliani e dice: scorgo solo ora quel magnifico esemplare elegante e asciutto, ma è bello come Clint Eastwood, con quella faccia bergmaniana da santo medievale. Potrebbe essere il cavaliere del settimo sigillo, Max von Sydow, che gioca a scacchi con la morte. E chi è accanto a lui la bella aristocratica coi capelli argento bianco da gabbiano, che la fanno sembrare ancora più giovane? E Ernesto Rossi, indignato da tanta frivolezza, la riprende: giù le zampe da Marco Baliani e da sua moglie. Marco e Maria sono due grandi affabulatori che portano nei teatri e nelle piazze l'arte del narrare. Nei suoi libri di racconti, Marco è parente di Todd Browning, il grande regista del muto, autore di Freaks. I Freaks sono tutti di Marco Baliani in questi racconti: il monco, l'uomo che adora la bomba, il mistico che fotte la terra. E c'è una pietà in questi racconti picara e religiosa, e c'è il terzo occhio, l'umorismo. I Baliani sono molto più che sposi, loro due da soli sono come tutta la compagnia di Capitan Fracassa. E poi venivano prescelti da questi due fantasmi che si amano ma hanno il dramma di non potersi congiungere, e guardando fra tutti questi scrittori gli unici due che facessero il caso sono i coniugi Baliani. Quindi i due fantasmi si buttano su di loro e lì comincia una formidabile, ispirata maratona erotica che non finirà mai più. La guardiana del faro. Ma che sta succedendo nel mondo? Io avevo un servo che non sputava sangue. Avevo due meravigliosi morelli con un mantello nero che brillava sotto il sole. Adesso Colas sentiva come se 100 aghi si fossero infilati nel recinto del suo cuore. E tirassero in tante direzioni diverse. E ad ogni colpo quella fenditura che si era aperta 3 settimane prima andava allargandosi. Allargandosi, e dentro nel dolore c'era un colore scuro, nero, come adesso erano neri i pensieri che qua cominciavano a galoppare, che qualcuno rimettesse le cose a posto, che ricucisse lo strappo nel cerchio del mondo, potersi ancora affacciare sulla veranda di casa e vedere una nuvola bianca e non scura e nera, che qualcuno gli portasse qua i suoi due morelli, che il servo s'alzasse, la smettesse di zoppicare e sanguinare, calma, Colas, calma, c'è la legge. C'è la legge, calma. Stai già precipitando dentro pensieri cupi e senza uscita. C'è la legge. E la legge vale per tutti in terra di Germania, dall'ultimo dei bifolchi al più grande dei principi e dei signori. C'è la legge. Quest'altro brano di Michele Colas, che abbiamo appena sentito, è stato rappresentato per la prima volta nel 1989 ed è di una bellezza e di una forza sconvolgente. Perché Marco Baliani avuto l'angelica impudenza di riscrivere von Kleist, di variarlo, ed è una cosa difficilissima. Il Novecento è stato tutto funestato dalla rivisitazione dei classici. Io per tutta la gioventù ho visto maltrattare senza scrupoli da Shakespeare a Molière tutti, e non si può tentare un'impresa del genere se non si assume un contatto medianico con l'originale. Non si può rivisitare se non si è rivisitati dall'autore. E a Marco Bellani è successo. È stato detto che von Kleist ha scritto Michele Colassa al galoppo, e infatti Marco ha cavalcato in groppa ad una sedia, che è anche il titolo del libro dove ha raccolto le memorie di questa esperienza, e questo dice nel libro Marco Bellani. 21 anni fa ho raccontato per la prima volta Colas. Seduto su una sedia per un'ora e mezza sperimentavo un teatro di pura narrazione. Da allora si chiamò così, teatro di narrazione, per tutti quelli, e furono e sono tanti, che seguirono il mio esempio, provando, ciascuno in forme e contenuti diversi, a ridurre lo spazio scenico ad un corpo narrante. Ho detto pura narrazione, ma sono l'impurità a rendere vivo un racconto. Più di una buona metà del testo di Colas è composto da ciò che compie il mio corpo, dai piedi che battono il ritmo, dalle mani, dagli sguardi, dalla biologicità vivente del mio essere. Oh, ecco al faro, stanno arrivando Maria Maglietta e Marco Bagliani. Io lo dico sempre alle ragazze che hanno delle pene d'amore: mettete su delle tabaccherie con i vostri amanti, perché soltanto quelli che hanno un interesse in comune, una visione, riescono a essere delle coppie non imbarazzanti, perché le coppie in genere lo sono, imbarazzanti. Come nella frase che diciamo sempre, l'amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia. Maria Maglietta, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Marco Bagliani. Buongiorno a voi. Allora Marco, abbiamo fatto sentire dei brani di Michele Colas, e ci vuoi parlare di questa esperienza? Michele Colas ormai ha 22-23 anni di repliche. Recentemente ho fatto la 1016ª replica. È uno spettacolo che è nato raccontando un testo che era scritto, che era quello di Kleist, però raccontandolo poi delle parole di Kleist non è rimasto più nulla, le ho completamente ricreate a partire appunto dal fatto che c'è un corpo che racconta. Secondo me non c'è racconto se non c'è corpo. Non c'è voce se non c'è il corpo, si porta dietro anche tutte le asperità del corpo, il fatto che c'è il respiro, l'afasia, la mancanza di ritmo oppure troppo ritmo, tutto quello che il corpo si porta dietro diventa voce, e in quel modo allora cominci a visitare davvero l'opera. Bisogna avere una forte sintonia col tema dell'opera. Io lì il tema della giustizia e dell'ingiustizia di cui parla la storia, perché è la storia di un mercante di cavalli che subisce un'ingiustizia terribile verso la metà del Cinquecento in Germania, e per ripristinare un livello di giustizia credibile a sua volta diventa un giustiziere. E il modo in cui si racconta è difficile da dire alla radio, perché il teatro si deve proprio masticare, vedere. In scena sono io seduto su una sedia per 1:20, non mi alzo mai. Io mi ricordo la prima volta che l'ho fatto al Teatro Verdi a Milano, e dopo un quarto d'ora per la prima volta ho sentito gli spettatori che si agitavano, perché dicevano: ma che fa, non si alza più questo, non c'è scena, non ci sono costumi, non c'è musica, non ci sono altri attori, sempre seduto. Ed era la prima volta che accadeva che un attore per 1:20 raccontasse una storia seduto su una sedia. Non solo, ma non è che sia una storia semplice con un narratore, no. È un film, ci sono guerrieri, cavalli, eserciti. Io ho imparato a raccontare perché ho raccontato storie e fiabe per 7-8 anni a bambini di tutte le età, nei posti più incredibili del mondo, ai refettori, alle aule scolastiche, ai parchi giochi d'estate, d'autunno, d'inverno. Quindi la capacità di tenere attenzione attraverso un racconto l'ho imparata lì. Con i bambini non si bara, vero? I bambini, se sbagli il ritmo sei finito, cioè sei travolto. E da lì poi è nata l'idea di provare con gli adulti. Allora, nel 1975 tu hai fondato la compagnia Ruota Libera, appunto spettacoli per ragazzi, e già da allora, in questa data, già c'è la collaborazione tra Bagliani e Maria Maglietta. L'abbiamo fondata insieme. Ci racconti un po', Maria? Di allora? Sì. L'idea di fare teatro per ragazzi è stata proprio una scelta, era sempre conseguenza della nostra esperienza ad architettura, dove ci siamo incontrati. Dopo una lunga occupazione, proprio durante il tempo di questa occupazione, ho cominciato ad avvicinarci al teatro, a scrivere dei testi, a mettere in scena degli spettacoli che rappresentavamo in Aula Magna per i compagni occupanti e non. E da lì è nato questo interesse, per cui l'idea di rivolgerci ad un pubblico di ragazzi, cioè di sceglierli come pubblico di riferimento, veniva proprio dall'idea di rivolgerci ai futuri cittadini, e quindi l'idea era anche di andare dove questi bambini c'erano, e fra tutti i possibili bambini c'era proprio una scelta ancora politica di privilegiare quelli che forse a teatro non sarebbero mai andati. Quindi il nostro lavoro è proprio iniziato nelle situazioni difficili, in quartieri più disastrati, in qualche modo della periferia romana, anche con esperienze durissime, perché erano veramente bambini con problemi enormi, cioè genitori in prigione. Cioè... Senti Maria, ci parli di voi due insieme nel lavoro, cioè due ragazzi si incontrano ad architettura, sono uniti moltissimo dalla politica, insomma si innamorano. Si innamorano. Lei mi ha cominciato a considerare, perché prima ci frequentavamo nel comitato politico, a me piaceva molto lei, poi portava delle gonne mozzafiato, era strepitosa, però non mi aveva mai filato, perché poi lei stava in un gruppo politico, io stavo in un altro, e un giorno io mi trovavo fuori dal comitato politico e stavo leggendo Moby Dick, e lei dice ma chi è? Ma come mai questo legge Moby Dick? Invece l'ho sempre visto fare le riunioni politiche. E lì ha cominciato a... No? E devo dire che io mi ricordo di un giorno, lui interveniva nel comitato politico, e quando interveniva era già un affabulatore, per cui aveva molto carisma. Ma io lo guardo e dico, ecco, questa è una persona con la quale non potrei mai stare. E mi ha attraversato perché? Questo perché pensiero. Perché questo? Ebbene, non lo so, c'era qualcosa che evidentemente mi attraeva, ma mi respingeva forse, proprio, o forse il timore. No, scusa, c'era una ragione ragionevole o così un istinto? No, è un istinto, lo guardo e dico, ma questa è una persona con la quale non potrei mai stare. E invece mi ricordo esattamente di quel giorno del Moby Dick, perché c'era proprio, era il primo pomeriggio, c'era questo sole che illuminava la panca, lui leggeva lì solitario, io mi siedo, sollevo il libro per vedere cos'era. E quando vedo Moby Dick è come se mi è apparsa un'altra persona. E lì ho cominciato a considerarlo, e qualche giorno dopo lui è arrivato con un testo teatrale che era Il matrimonio del signor Mississippi di Diuremat. Sì. Me lo presta regalato. e da questo ancora momento... non pensavate di fare gli attori? No. Assolutamente. Quindi lui presta Diuremat, poi? Io leggo Diuremat, glielo riporto, poi cominciamo a fare di teatro. E poi attori insieme. Poi attori insieme, ma la fame, insomma, cioè attori insieme, ma senza una lira, senza un soldo, senza sapere, non avevamo nessuna struttura di protezione. Abbiamo fatto tanto teatro di strada, noi andavamo proprio la gavetta, senza mai aver fatto né scuole né accademie. Cioè. Poi abbiamo incontrato un grande maestro, che è quello che ci ha un po', questo Carlo Formigoni, che era allievo di Brecht. E aveva già tirato su un gruppo famoso che era il Teatro del Sole di Milano, dove lavoravano attrici tipo Angela Finocchiaro, Ruggero Cara, Paolo Rossi, cioè stavano tutti là dentro, facevano teatro ragazzi, e io li conoscevo perché erano molto bene, un gruppo famoso in Italia del Teatro del Sole, e lui teneva uno stage a Vieste nel Gargano, e io e lei decidemmo di fare una vacanza, di prenderci la tenda, e lì è stata proprio come se quelle due settimane ci ha fatto capire che se volevamo fare teatro bisognava farsi un mazzo così, cioè che serve la disciplina, che serve le regole, che non puoi, se fai quello fai solo quello. E avete capito che quella era la vostra vita? Sì. Che non avreste fatto gli architetti? No. Secondo voi oggi sarebbe possibile un'avventura come la vostra? Era un mondo molto più povero di quello di oggi, ma pieno di possibilità. Cioè noi andavamo in una città, c'era sempre qualcuno che ci ospitava, che non conoscevamo, porte aperte, open house, era un periodo in cui io dormivo nel sacco a pelo, lei andava da una parte o da noi, ospitavamo altri. Noi andammo a fare uno spettacolo, io mi ricordo ancora, in una scuola di Acilia, bello. Uno dei primissimi spettacoli che facevamo per bambini, e siccome nella nostra comune, io stavo a Via dei Serpenti, lei mi veniva a trovare lì, facevamo l'amore a Via dei Serpenti, ogni tanto arrivavano degli ospiti, arrivarono questi due tedeschi che poi non abbiamo più rivisti, lui e lei si chiamava Eva e lui non so, altissimi, biondi, che facevano delle performance per strada, perché dovevano guadagnare un po' di soldi per comprarsi un piccone e una vanga, perché avevano un terreno a Vulcano, e quindi noi ce li portavamo dietro nei nostri spettacoli, e dicevano no, veniamo anche noi, e noi abbiamo fatto il nostro spettacolo e loro ci hanno detto ma magari facciamo anche noi qualcosa per i bambini, vabbè, dai, fatelo. Si vanno di là, si truccano, entrano in scena nudi. Ci facevano Adamo ed Eva alle origini del mondo, ma completamente nudi. Era una specie di danza. Una danza molto performance, senza parole, facevano tutta una cosa simbolica. Belli, avevano tutti e due capelli molto lunghi. Capelli lunghi, poi lui si metteva il rossetto perché diventava come lei, insomma, lo scambio. Beh, tu lo sai che le insegnanti non si sono per niente impressionate. Adesso non ti è che ci hanno denunciato, capisci? Sì. Questo è impensabile, né i bambini né le insegnanti. Lo spettacolo aveva una forza, quindi era bello. Evidentemente... È che il Novecento si portava dietro una bella scintilla dell'Ottocento. Sì, secondo me c'era una tradizione dietro di ribellione. E si riesce ad avere, lavorando in due, una vera parità? O è variabile? C'è una complementarietà. Ah, ecco. Sì, abbiamo proprio le nostre diversità trovano... armonia. Dei punti di intersezione, sì, e quindi ognuno è utile all'altro. Beh, io sono sicuramente più egocentrico di lei, più narciso, insomma, mi piace stare in scena. Lei, per esempio, sì, è più defilata lei rispetto al lavoro, però se non ci fosse lei, io mi piace più la realizzazione perfetta, giusta di quello che sto facendo. Quindi è sempre il progetto che guida. Se anche a un certo punto per la riuscita del progetto è bene che io faccia un'altra cosa, io sono felice così perché godo in quello. Chi sono i vostri nemici? No, non i nomi, voglio dire. Chi sono gli ostacoli veri che voi incontrate nel lavoro? Ah, in genere la mediocrità di molte istituzioni, di quelli che governano molte istituzioni, compresi i direttori di teatri... che non gliene importa nulla del lavoro creativo, non gliene importa veramente, stanno lì per altri motivi. Questo forse non fa parte solo del teatro e della cultura, insomma. Questa, la mediocrità, è la cosa che a me fa più rabbia, nel senso che è la mediocrità col potere, poi, no? Che diventano ancora più potenti proprio perché sono consci della loro mediocrità. Sono gli uscieri di Kafka, proprio. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Vi abbiamo fatto sentire la canzone di Franco Battiato specialmente per la frase chiave che contiene e che, ahimè, abbiamo avuto occasione di ricordare molte altre volte. Ma non vi fanno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Frase che si attaglia a tante tragedie italiane che si svolgono accanto a noi e non cambiano niente, come i suicidi per disperazione, gente che non è lavoro, che subiscono ingiustizia, persone che si danno fuoco o si sparano, rivolgendo la rabbia contro di sé. Questa volta, con la frase di Battiato, ci riferiamo a Stefano Cucchi, che entrò in carcere vivo e ne uscì moribondo per morire poco dopo all'ospedale a causa delle percosse ricevute. Ma secondo la sentenza emessa dai giudici nel finale del processo, non è stato nessuno. Ho davanti a me la sua foto, che non è facile da guardare. Quella pubblicata sulla prima pagina del Fatto Quotidiano il 6 giugno, dove ha il volto devastato. Il giornale si riferisce alla sentenza del tribunale, il quale ha assolto gli agenti della polizia penitenziaria accusati di averlo picchiato, causandone la morte, e titola «L'hanno ridotto così, ma per i giudici è colpa dei medici». I medici hanno avuto delle pene leggere, ma la pena è stata sospesa per tutti. Questo ragazzo si chiamava Stefano Cucchi, aveva 31 anni, era geometra, gli piaceva la box, era stato tossicodipendente e qualche anno prima della morte si era curato in comunità. Io qui cito da Wikipedia. Il 15 ottobre 2009 Stefano Cucchi viene trovato in possesso di 21 grammi di hashish e antiepilettici. Questi farmaci era assolutamente legittimo che lui li avesse perché aveva sofferto anche di epilessia. In conseguenza di questo venne decisa la custodia cautelare. Quando è entrato in carcere, il giovane non aveva alcun trauma fisico. Il giorno dopo, quando viene processato per direttissima, si presenta che non riesce quasi a camminare da quanto sta male e a parlare, e ha una faccia devastata dalle botte, ematomi da ogni parte. Nonostante lo stato in cui si trova, il giudice stabilisce una nuova udienza per qualche settimana dopo e lui rimane in custodia cautelare a Regina Coeli. Dopo la prima udienza, le condizioni di Cucchi peggiorano terribilmente. Viene visitato l'ospedale Fate Bene Fratelli e vengono messi a referto. Lesioni ed ecchimosi alle gambe, al viso, ma non piccole ecchimosi. Al viso ha anche una frattura della mascella. All'addome ha anche una emorragia alla vescica. Al torace, tra cui due fratture alla colonna vertebrale. Morirà pochi giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini, il 22 ottobre, 7 giorni dopo l'arresto. Quando muore, Stefano Cucchi pesa 37 kg. Dopo la prima udienza, i familiari hanno cercato a più riprese di vederlo, o almeno di sapere in che stato era, perché lo avevano visto in che stato era ridotto durante la prima udienza. E invece niente. Viene negato qualsiasi contatto e viene negata qualsiasi notizia. La prima notizia che la famiglia ha di Cucchi è quando un ufficiale giudiziario va a casa loro per chiedere l'autorizzazione all'autopsia. Questa è la storia. Un ragazzo entra in carcere per 21 grammi di hashish, viene ammazzato di botte, ma non ne colpa nessuno. Sì, un po' di trascuratezza dei medici, secondo la sentenza, ma per morire non basta che uno sia trascurato. Bisogna che uno sia arrivato lì in gravissime condizioni. No, la colpa è dei medici. Omicidio colposo, no? Colposo vuol dire in fondo involontario. Quando viene letta la sentenza in aula, e tra l'altro questa cosa gravissima per cui le pene sono state non solo leggerissime ma anche sospese, si levano delle proteste. E allora qualcuno fra i parenti degli agenti assolti mostra il dito medio ai parenti del ragazzo ucciso. Cioè non basta l'assoluzione, anche lo sfregio. Nessun rispetto davanti alla morte. È terribile vivere in un paese dove non ci possiamo fidare degli ospedali e delle carceri. E quella crudeltà colpevole di non avvertire i parenti, di farlo morire solo come un cane, di non dare alla madre, al padre, alla sorella la possibilità di rivederlo. Ma già, avrebbero fatto delle domande. Si sarebbero resi conto dello stato in cui era. Guai ad avere dei testimoni. E tutta la mia ammirazione va alla sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, la quale dalla morte del fratello ha dedicato ogni giorno della sua vita a chiedere giustizia. Ora, dedicare la vita in tre parole comprende un'infinità di rinunce, di difficoltà e anche la volontà stoica di votarsi alla ricerca della giustizia per non abbandonare il fratello e quindi di vivere costantemente senza tregua accanto a questo dolore. Ma quale senso della civiltà ci vuole e della legalità per rispettare una legge che non ti rispetta, che lascia che ammazzino tuo fratello? Ma questo non incide nelle nostre vite, tutto continua come prima. Noi non pensiamo che potrebbe toccare noi o una persona a noi vicino. Siamo così anestetizzati, ci hanno abituato e ci siamo abituati a camminare sui morti. E Ilaria, come Antigone, vorrebbe dare un'onorata sepoltura al fratello, ovvero con un po' di giustizia. Ma l'autorità, Creonte, il potere, non lo permette. C'è da aver paura a essere cittadini italiani, oggi. Questo invito all'impunità, questo trionfo dell'impunità, come nel caso di un altro ragazzo ucciso dalla polizia, Federico Aldovrandi, dove gli agenti erano stati condannati a qualche mese e i colleghi inscenano delle manifestazioni davanti al posto di lavoro della madre per sfotterla e provocarla, come se non fosse bastato ammazzargli il figlio. Mario Staderini, a nome dei radicali, afferma: la Repubblica Italiana non è solo responsabile della sua morte, ma non ha spiegato cosa sia davvero successo e chiede di introdurre il reato di tortura e garanzie per chi finisce nelle mani dello Stato, che mi sembra il minimo delle basi di una civiltà che si vuole democratica. E poi quest'altra cosa atroce, assolvere gli agenti ripiegando sulla responsabilità dei medici, come se fosse meno grave che invece di un agente ad ammazzarti sia stato un dottore. Io non capisco, io vorrei che qualcuno mi spiegasse, perché la sentenza non spiega niente. Questa sentenza terrorizza, soltanto non spiega ma terrorizza, all'idea di finire in prigione o all'ospedale Sandro Pertini, dove Stefano Cucchi, a 31 anni, è morto. E non vale nemmeno dire potrebbe succedere a noi, potrebbe succedere ai nostri figli. Intanto è successo Stefano Cucchi e mi pare che basti. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare. Qui Capitaneria di Porto. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è anche in libreria, con le lettere e i racconti sull'amore letti da Barbara Alberti a Radio 24. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.